Cantine di Franciacorta. Un saluto, siamo a Cologne, alle pendici del Monte Orfano, ospiti della famiglia Fratus, proprietaria dell'azienda vitivinicola Ricca Fana, 120.000 bottiglie all'anno, di cui 90.000 di Franciacorta DOCG, un'azienda che ha convertito da anni tutta la coltivazione all'agricoltura biologica, grazie anche a condizioni favorevoli. Sentiamo Riccardo Fratus. Prima di tutto il territorio dava la possibilità, e il Monte Orfano è un monte che fa da scudo a molte intemperie, quindi riesce anche a proteggere da molte malattie. In più abbiamo una microfauna che contrasta e sovrasta i vari insetti che ammalano l'uva. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.